Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Questo è Padri Eterni in diretta. Ogni domenica un programma tutto dedicato ai padri. Parliamo di padri, parliamo ai padri. Lo facciamo noi che siamo due padri, cinque figli in due. Copriamo un ampio ventaglio di età. Insomma, ci divertiamo a riflettere su questa... su questa strana figura, dai, definiamola così, che è il padre moderno. Radio24.it è il nostro sito, da lì come sempre potrete scaricare il podcast, poi c'è la nostra pagina ufficiale di Facebook, da lì invece potete mandare messaggi. Come stai, Matteo? Bene, bene, dai, siamo sopravvissuti a Santa Lucia. È vero che per voi, soprattutto tu, insomma, sì. Verona, Brescia, Veneto, eccetera. Sì, è una festa importante, arrivano i primi regali o sono gli unici regali che arrivano? No, sono i primi regali e questo è il danno, perché ci sono i regali di Santa Lucia e poi i regali di Natale, quindi si bissa. Perfetto, la prossima settimana, tra l'altro domenica, saremo in onda, ovviamente, una puntata speciale insieme a Topolino, sì, ve lo anticipiamo, con noi ci saranno alcuni bambini, alcune bambine qui in studio, puntata che, lo dichiariamo, abbiamo registrato e mercoledì in edicola ci sarà il backstage di questa bella puntata con Matteo Bussola con il suo maglioncino nuovo, tra l'altro, che potrete vedere fotografato, giusto? Giusto. Oggi invece parliamo di Natale, parliamo dell'avvicinamento al Natale e iniziamo proprio citando L'attesa. Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. Solo per te io cambierò pelle per non sentir le stagioni passare senza di te. E per entrare nella dimensione dell'attesa abbiamo invitato Stefano Di Polito, regista, autore, scrittore, autore del libro E poi sarà amore, il diario di un papà in attesa. Di solito parliamo di papà alle prese con i loro figli, anche in questo caso però abbiamo anticipato di 9 mesi, diciamo, il momento problematico, ecco, definiamolo così. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Un diario bizzarro, perché tu, se ho ben capito, hai scritto lettere al figlio in arrivo. Esatto, sì, a mia figlia che si chiama Lucia, che è nata in Spagna. E sì, è un diario che è nato dal cuore. Quando ho scoperto che era una bimba, l'ecografia della 20ª settimana... Avevo appena finito di girare un film, però ormai le energie creative erano solo per questa attesa, quindi ho iniziato a scriverle delle lettere, sono 27, e sono delle promesse d'amore che le scrivevo mentre immaginavo tutta la sua vita, quindi non solo i primi giorni, e nel frattempo entravo dentro anche dentro di me, cercando di capire come potermi preparare a questa trasformazione che ho sempre desiderato, era proprio una ricerca, no, di diventare padre. Quindi lettere di amore che però servivano un po' per raccontarti chi eri in quel momento. Cosa è successo? Esatto. Come sei cambiato in quei 9 mesi? Ma moltissimo, nel senso che volevo proprio cambiare perché probabilmente non mi sentivo ancora pronto, come non lo sono tuttora. La cosa più particolare è stata la scelta di andare via dall'Italia, che spesso capita purtroppo a chi diventa padre o chi vuole diventare, e sono andato, la mia compagna di Tenerife, sono andato a Tenerife al caldo, questo sì, e la bimba è nata lì e per 4 mesi poi non ho più lavorato, ho scritto tutto il tempo, il che è una rivoluzione per noi papà italiani, perché come sapete benissimo noi abbiamo 2 giorni di congedo, no? Che è una follia. E sulla spiaggia di Tenerife mi incontravo invece con i papà tedeschi, i papà francesi, che hanno 15 mesi di congedo e la differenza era abissale. Anche solo questo, per questo motivo valeva la pena, no, scriverla questa esperienza. St- Stefano, senti, tu hai nominato la parola congedo, io la salto a pie pari perché se no mi sale l'incazzatura e finiamo la puntata solo su questo argomento. No, allora non lo dico più. Volevo chiederti che in realtà no, ultimamente stanno sempre più di frequente uscendo libri scritti da padri che parlano di paternità, il che per me è tra l'altro un bel segnale. Certo. Ma il tuo di particolare è che, come diceva Federico, è un libro sull'attesa, è un libro sul prima, è un libro che finalmente dichiara che la paternità non parte da quel poi, no, col quale noi ci confrontiamo nel momento in cui il bambino appare, ma comincia da prima anche per noi. Mi piace l'idea che la scrittura, poi, no, questa forma attraverso le lettere, forse è una maniera per prendersi il tempo, per creare questa giusta distanza che ci permette di guardare e di guardarsi. Per te è stato così? Sì, sì, perfettamente. Io ovviamente scrivere un libro è un lavoro lungo, no? E quindi recuperavo un po' di tempo durante l'attesa di vedere Lucia. Il libro finisce quando lei nasce e questa cosa, poi le leggevo anche le lettere, leggevo la mia compagna, leggevo le lettere a lei, no? Che era nella pancia appunto della mia compagna. Ed è stato un esercizio importantissimo per me e lo è tuttora. Perché, come dicevo, anche il titolo è Il futuro, no? E poi sarà amore, ma è proprio perché in realtà noi dobbiamo in qualche modo confermarlo ogni giorno, l'amore di un padre, no? Mentre anche per le leggi di cui parlavamo, anche per un modello che sta cambiando e noi siamo abbastanza in difficoltà, molte volte scappiamo, no? Da questo tipo di responsabilità. Certo. Michele, mi concedi una provocazione, ma quindi adesso è già tutto scritto? Cioè non c'è il rischio poi di creare aspettative troppo no, infatti è un rischio consapevole, sì, cioè è tutto scritto ma è tutto da fare, infatti in una lettera dico, ora che so che sei una donna il nostro rapporto è tutto da scrivere, no? Cioè, anche se è già scritto in questo diario. È come una mappa, in realtà, è come una mappa sentimentale, ma in realtà, come dicevi giustamente prima, no? Il per sempre si costruisce un giorno alla volta. Esatto, e poi voi sapete benissimo, anche gli ascoltatori, di quanto sia complicato invece il momento in cui poi nasce un figlio o una figlia, per cui noi improvvisamente perdiamo lo status di amanti, no? Di eroi e diventiamo insomma persone impreparate che cercano di aiutare la compagna, e in quei primi anni, adesso mia figlia ha già 3 anni, non è recente, è una casa editrice che ha voluto a tutti i costi pubblicare questo diario, no? Perché ne ha letto l'importanza. I primi anni di un bimbo sono anni molto difficili per un uomo, e quindi se non ci siamo preparati un po', no? In quei 9 mesi arriviamo che tra le notti insonni, come racconta anche il tuo libro, e poi insomma le fatiche della vita quotidiana, il bisogno di occuparsi anche materialmente dei figli, alla fine molte coppie si rompono, comunque i rapporti si deteriorano e non sfruttiamo quei primi 2 anni che sono fondamentali per un figlio, no? Per gli stimoli, per crescere, per... E credo che quindi si debba partire un po' prima, no? Cercando di anticipare i rischi. Stefano Di Ippolito, E poi sarà amore, diario di un papà in attesa, imprimatur la casa editrice, imprimaturreditore.it per tutte le informazioni. Ciao Stefano, grazie. Grazie a voi per questa bella trasmissione. Grazie Stefano, ciao. Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua in diretta con i Padri Eterni. Padri Eterni. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Ancora i Padri Eterni? Allora, adesso andremo a toccare un argomento, Matteo, dove forse noi non siamo proprio i testimonial ideali, vero? Cioè, no, noi siamo un po' più rustici, diciamo così. Sì, un po' più casual. E prendendo spunto da un bel libro, accidenti, l'ho sfogliato e mi è piaciuto alla fine, anche se è una cosa apparentemente lontana da me, però è davvero ben fatto, che si intitola Uomo e Gentiluomo, un manuale pratico per essere un perfetto gentleman, che è in edicola per tutto il mese di dicembre con il sole 24 ore. Ci siamo chiesti, ok, qui vengono dati un sacco di dritte, un sacco di consigli, no, che vanno a toccare il tema delle buone maniere, dell'eleganza, diciamo della sana formalità. E, ok, prendiamo esempio dal libro. Poi c'è un periodo che è particolare, che è quello del Natale, quindi comunque ci sono le feste, ci sono i pranzi, ci sono le cene, ci sono le grandi tavolate. Beh, forse può essere un momento per trasmettere o comunque riflettere su alcuni di questi concetti. E quindi abbiamo invitato uno dei coautori, diamo il benvenuto a Michele D'Andrea. Buongiorno Michele. Buongiorno, eccoci. Ma perché vi definite rustici? No, perché... Ma no, ma dai. No, io ti dico, guarda, sono andato subito sulle pagine in cui insegnate a fare il nodo alla cravatta, perché io rischio l'impiccagione ogni volta che ci provo. Quindi da lì hai capito tutto, credo. Ma lo sai che il nodo della cravatta è uno dei doni che dovresti dare a tuo figlio quando ha 18 anni? Ok, quindi allora con uno... Sì, perché sai, può sempre servire, è come vero. Dire. No, è vero, hai ragione. Anche se, guarda, quelle poche volte che... indosso la cravatta, chiedo a mio padre una mano e vedo in lui la gioia comunque nel potermi aiutare. È vero, hai ragione. Io ho una cravatta con un nodo fatto nel 1987 da mio padre e la riutilizzo ogni volta che... Puoi prendere quelle con l'elastichino, che sono eccezionali. Allora Michele, Uomo e Gentiluomo, ecco. È davvero un mondo così lontano quello dei bambini, dei figli, dei ragazzi? No, vero, può essere davvero Natale l'occasione per... Io vorrei un pochino abbassare i toni in questo senso. Non crediate che questi libri, cioè lo stare in società, sia qualcosa di elevato. È la naturalezza di vivere le occasioni. E sono le occasioni, cosa che magari alcuni non pensano, sono le occasioni che determinano, ad esempio, l'abito, la postura, il gesto, certo, come si parla, come ci si muove. Quindi, semplicemente... Il gentiluomo, chiamiamo così, è colui che riesce a vivere con grande naturalezza le diverse occasioni, conoscendo naturalmente i codici. Mm-hmm. Questo è. Quindi voglio dire, non è che sia qualcosa di elevato. Il libro, vedi, un manuale abbastanza pratico, cioè voglio dire, molto facile, molto leggibile. E il sapere, molto meglio essere naturale, cioè voglio dire, è meglio sbagliare, ma... che essere ingessati, capisci? La naturalezza. Certo. E tu mi parlavi del Natale, ma il Natale è il momento della bella informalità. Cioè, chi in famiglia si metterebbe a zimate? È chiaro, ognuno ha le proprie tradizioni, ma in una famiglia normale, cioè tu ti vesti, no? I bambini, ma con i jeans, basta magari che non siano reduci da un safari nel Serengeti, insomma, cioè puliti, ordinati, insomma, così, ma veramente il Natale poi è il momento degli affetti. Quindi bisogna stabilire che occasione si vuole creare, certo, e ci si adegua a quello con molta naturalezza, ripeto. Mm-hmm. Quindi comunque essere se stessi credo che rimanga assolutamente il messaggio di fondo, che no, se il tuo essere te stesso hai jeans e maglione, ok, non c'è dubbio, ma è il 90% delle persone che passano il Natale così. Mm-hmm. Anche nella vostra esperienza, ditemi, cioè il Natale si passa in questo modo. Sì, assolutamente. Che poi, anche perché prevalgono altre cose, poi sai, ci sono occasioni diversamente, altre occasioni formali, vai dal Presidente della Repubblica, è tutto un altro mondo. Certo. Mi piace molto questo discorso sulla postura, Michele, perché poi la postura è ciò che determina, se così possiamo dire, la nostra posizione nel mondo, no? La maniera in cui stiamo qui, e quindi il fatto che non ci sia una postura istituzionalizzata, ma che poi, come tu dicevi giustamente, ognuno debba avere la propria, mi sembra un bel messaggio. Sì, ti dico però una cosa, guarda, le norme, chiamiamole di cerimoniali, valgono nel... oggi e in questo periodo, qui stiamo a te, non esistono leggi immutabili, capisci? Il cerimoniale è qualcosa che muta. Una cosa dico della postura, c'è qualcosa che invece è rimasto immutato, la postura a tavola. Cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? No, è che la postura a tavola, tra l'altro, è la cosa più difficile da cambiare. Io ce l'ho proprio per esperienza, se tu sei abituato, e la postura a tavola si ha in famiglia, quindi la postura è retta, corretta, cioè non sbracati, non andare verso il cibo, ma questo per una questione antichissima, cioè la persona era chi mangiava normalmente e quotidianamente assumeva una posizione abbastanza distaccata, non si gettava sul cibo. Quello che io raccomando, ad esempio, visto che non c'è nessun problema, cioè, non buttate il gomito sul tavolo quando bevete, non attaccatelo, alzatelo, cioè spostate. Ecco, solo questo, poi per il resto voglio dire, insomma, una postura normale, insomma, non si fanno cose già esagerate. Essere eretti, ecco, mm-hmm. Essere eretti, questa forse è la cosa che potrei permettermi di suggerire, insomma. Michele, la postura in fondo riguarda anche il come ci poniamo nei confronti degli altri. Ti chiedo, un gentiluomo padre, visto che la nostra trasmissione si occupa prevalentemente di questo, insegna anche per esempio ai propri figli come relazionarsi con le donne? Lo chiedo perché no, mai come in questo periodo in cui si sente parlare di mancanza di rispetto. Sì, hai ragione, ma la cosa più bella di un diciottenne, ad esempio, è che quando accompagna la sua fidanzatina in un ristorante, entra per primo. Certo. Perché di solito normalmente uno apre la porta e fa entrare la ragazza, che è un errore clamoroso. È l'uomo che deve guidare, è l'uomo che deve esplorare l'ambiente, che deve relazionarsi con il cameriere, che deve accompagnare e precedere la donna al tavolo. E possiamo dire che queste regole, tra virgolette, poi prescindono, no, da tutte le questioni sociali, di femminismo, di maschilismo, insomma, sono cose di buon senso. Ma guarda che il cerimoniale è devozione nei confronti della donna, se ci pensi, eh? Certo. Cioè accompagnarla anche, ci sono delle cose che potrebbero far ridere quando tu accompagni una signora e le lasci il lato interno del marciapiede, ma per protezione certamente, cioè per evitare, voglio dire, è tutto la donna, al di là dell'ambito lavorativo in cui vige assolutamente il grado, e lì è una cosa imprescindibile, cioè chi comanda, non c'è dubbio, cioè la donna rientra nella gerarchia, ma nelle occasioni sociali il cerimoniale è devozione, cioè lo star bene vuol dire riconoscere alla donna questo ruolo di primato. Certo. Un po' come Dante, insomma, non c'è dubbio. Michele, un'ultima domanda prima, prego, di salutarci: lo smartphone e i nostri figli possono lasciarlo sul tavolo? Ma guarda, se tu mettessi sul tavolo del ristorante un portocchiali, non avrebbe nessuna differenza, no? Se devi leggere il menù, il fatto di non usarlo, cioè voglio dire, se hai dei problemi ti alzi e ti sposti. Io ho visto, sai, un'ultima cosa, 10 secondi, padre e figlio, lui sicuramente separato, bambino di 8 anni, dopo un quarto d'ora che erano seduti al tavolo, ognuno smanettava col suo smartphone. Questa è la cosa che mi ha lasciato veramente, come dire, male, no? Certo. E lo smartphone uccide talvolta veramente il piacere di parlare con chi ti sta vicino. Uomo e gentiluomo, ovvero il manuale pratico del perfetto gentleman, Gribaudo, ricordo in edicola con Il Sole 24 Ore, Laura Pranzetti Lombardini e Michele D'Andrea, gli autori. Grazie Michele, buona giornata. Auguroni, ciao. Ciao, auguri. Buone feste. Ciao, ciao, ciao. Grazie Michele. Mangio fuoco. Eccoci qua. Guarda cosa ho portato io. Wow. Sono le patate bollite. Dov'è quella con la testa? È difficile trovarla adesso in questo pasticcio. Lasciamole fumare qua, che così si raffreddano un pochino. Voci di cucina, adesso voci di cucina insieme per introdurre il prossimo ospite. Ci ha scritto una lettera, dice: buonasera Federico, buenasera Matteo, sono papà di 4 figlie e co-founder con mia moglie Carlotta di Pasta e Motore in Cucina con papà. Da sempre la cucina è stato il mio fil rouge con i miei figli. Beh, Natale, vacanze, c'è anche tanto tempo che si passa in cucina, tanto tempo dove si può anche insieme mettere le mani in pasta, quindi ci sembrava l'ospite giusto per avere qualche stimolo e per capire il cuore di questa storia. Diamo il benvenuto ad Alberto Buratto. Ciao Alberto. Ciao Federico, ciao Matteo, buongiorno a tutte le mamme, papà, nonne e anche gli zii, e soprattutto grazie a ospitarci, siamo political correct. Sì, ciao Alberto. Abbiamo salutato tutta la famiglia. Allora Alberto, tu avete usato proprio la cucina come canale privilegiato per trasformare il tempo in tempo di qualità con i figli. Sì, siamo partiti da una consapevolezza, cioè la più grande azienda è la nostra azienda e quindi le risorse più importanti su cui investire sono decisamente i figli. Purtroppo il mondo attuale ci porta a investire nelle aziende, nelle persone, ma dimenticarci molto spesso la risorsa più importante, che sono i nostri figli. E quindi è nata questa idea di dire... Tanto tu insomma parli anche con cognizione di causa, nel senso che sei un imprenditore, giusto? Sì, sono un imprenditore, sono stato anche un manager di una grossa azienda e quindi il team building familiare aziendale era una delle cose più importanti durante il weekend. E questo ci ha portato a capire che dovevamo fare un cambio nella nostra vita, quella di Carlotta, mia moglie e mia, cioè dedicare un po' più tempo ai nostri figli e dedicare del tempo anche per trovare delle occasioni per i propri figli, ma anche quelli degli altri. E quindi siamo partiti dalla nostra esperienza aziendale per dire, ma cerchiamo di cambiare, e la televisione oggi ci propone molto show cooking. Noi abbiamo pensato di fare un family cooking, cioè partire da un team building familiare e creare un'educazione esperienziale, cioè un'esperienza da fare con i propri figli, con i propri nipoti, e creare quel fil rouge che a me è legato molto e sta legando con i nostri bimbi. Ma quindi vi siete dati dei tempi, degli spazi, delle regole tra virgolette? Ma delle regole no, però perché abbiamo scelto il nome Pasta e Motori? Proprio perché ritorna su questo, Federico, quindi pasta perché è cucina, è curiosità, è attenzione, è precisione, soprattutto è gioco di squadra. Il motore è la dinamicità, è il movimento, la velocità. Quindi il motore può essere il motore meccanico, quindi l'auto, la moto, ma essere anche quello natura, quindi il vento, tipo la barca a vela, o l'umano, il muscolo, il carta, pedali, oppure il motore più importante che sono i valori, il rispetto, l'amore. Quindi l'educazione esperienziale è quello di fare con gli altri, con i propri figli, con i propri nipoti, dedicare a loro del tempo, mezz'ora, un'ora, due ore, quando si ha tempo, per fare qualcosa. E questo abbiamo visto che porta rispetto del lavoro degli altri. Cioè, io faccio sempre un esempio: se insegniamo a fare i tortellini, fa capire il tempo e la fatica necessaria, e di conseguenza fa apprezzare al bambino il lavoro degli altri. Se si conosce, si rispetta e si valorizza quello che si mangia anche in 10 secondi. Alberto? No, allora, a parte che anch'io ho una certa dimestichezza, come dire, col licenziarsi dai lavori apparentemente certi per reinventarsi la vita, potremmo dire così, ma mi piace questa idea che proponi, no, di tempo tutto attaccato, anche passare maggior tempo con i figli sono coinvolti dunque nella vostra attività a 360 gradi, diciamo. Ma allora, i nostri figli, tieni presente, quando siamo partiti con questa attività, i nostri figli avevano 2 anni e mezzo e 5 anni, li abbiamo portati dal notaio per costituire la società, le riunioni per decidere la grafica e il naming sono state fatte assieme, le ricette nel sito sono fatte esclusivamente dai nostri figli, quindi cioè, è un percorso formativo anche con tutte le problematiche che possono nascere. Certo, ma in una manciata di secondi, Alberto, la ricordiamo, pastemotori.com, che di fatto oggi che cos'è? Allora, di fatto oggi che cos'è? È un contenitore che racchiude delle ricette per far passare del tempo ai bambini con gli adulti, e poi produciamo delle ricette in scatola, delle Rebox, che sono invece delle scatole con dei bauletti con tutti gli ingredienti pronte per essere utilizzati, e un manuale pensato per accompagnare anche i neofiti alla cucina durante il procedimento della ricetta. Fantastico. Senza sprechi, cioè tutto predosato, con le risposte alle domande dei bambini sugli ingredienti e le istruzioni a prova di papà. Io dico sempre, se io prima non sapevo cucinare, oggi so cucinare e quindi lo faccio passo a passo. Guarda, adesso Bussola è molto bravo in cucina, io invece no, sono pessimo, quindi credo che ne farò uso. Ma guarda, a me hanno regalato uno dei box di Alberto, e in realtà sono utilissimi, anche se sai cucinare, insomma, avere una cosa con le cose già pesate, già dosate, già è molto molto utile. Perfetto, grazie davvero ad Alberto, pastemotori.com è il sito di riferimento, buone feste! Grazie, auguri a tutti quanti. Auguri Alberto. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. Monge, le sciatte Special Dog sono alimenti genuini, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno, patè cremosi e crocchette con carne fresca. Auguri da Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Stress da lavoro? Ricaricati tra le Dolomiti. Nella schiarea San Martino di Castrozza Passorolle ti aspettano piste perfette e panorami mozzafiato per un break all'insegna di sci, divertimento e benessere. Segui le webcam su sanmartino.com. Le avventure sulla neve sono già iniziate. Meraviglioso. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo. Quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio, dalla semina al raccolto, fino alle vostre tavole, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Fra 100 metri, svoltare a sinistra. Mi correggo, svoltare a forse a destra. Fra 50 metri, proseguire dritto. Forse. Invertire il senso di marcia quando possibile. Ma di destinazioni piccola impresa, quante ce ne sono? La piccola impresa è ovunque sia un artigiano. Da sempre fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto d'impresa. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it. Il Natale è da Euronics con il sottocosto. Fino al 24 dicembre, Huawei P8 Lite 2017 Dual SIM Blue Edition, tu a 179 euro. Meglio non lasciarselo sfuggire. 5.000 pezzi disponibili. Euronics ti ascolta. Davvero. Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato culto. La grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa culto. L'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca. 500L è tua a 15.500 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento meno 1.000 anziché 16.500 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. TAN 595 TAE GOT 01, salvo approvazione FCA Bank. Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it, anche sabato e domenica. Padri eterni. Mi piacerebbe che fossi più comprensivo su alcune cose, perché alcune cose magari sono cose che voglio fare io, senza fare esempi, sono cose che vorrei fare io, però magari a lui non vanno bene, allora non me lo impedisce, però non è una cosa che mi fa stare molto bene. Che alcune volte mi tratta come se fossi un bambino e altre volte, quando preferisce, mi tratta come se fossi un adulto, che è una persona più grande. Vorrei dire che scialla, cioè nel senso si deve un po' rilassare perché è sempre indaffarato nelle sue cose di lavoro. Carolina, Bib, Alessio, le loro voci, i loro consigli a noi genitori, scialla, hai sentito? Sì, ma queste ce le meritiamo e ce le teniamo tutte. Sì, assolutamente, sì. In particolar modo la seconda, quella del che li trattiamo a seconda della necessità e del comodo, soprattutto da bambini o da adulti. Questa è una cosa che li manda in bestia, ma hanno ragione. Radio24.it è il nostro sito, padreterni@radio24.it. Se volete mandarci le vostre email o i vostri messaggi, la stessa cosa potete farla attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook. Raccogliamo le voci di ragazze e ragazzi che hanno voglia di dare un consiglio ai genitori, magari non proprio al loro genitore, ma ai genitori in generale. Noi questi consigli li facciamo nostri, li amplifichiamo e appunto li... E così li subiamo anche, giustamente, come ha detto Matteo, sì, prendiamoli tutti e ci fanno molto bene. Tu, quando vedi tua figlia sul divano, qual è il primo pensiero che fai? Quella grandicella, magari. Ma le chiedo se mi fa posto su. È invidia, insomma, la tua. Sì, assolutamente. Famoso divano, ci risiamo con gli sdraiati, ci risiamo con gli indavanati, ci risiamo con questi adolescenti, soprattutto, che vediamo ciondolanti, stanchi, sbuffanti. è così, cioè sono davvero sempre stanchi. Beh, insomma, dai, la ciondoleria e la sbufferia fanno parte fisiologicamente, mi verrebbe da dire, dell'adolescenza. Insomma, è chiaro che poi se sono esasperati, se sono continui, possono rappresentare forse un piccolo campanello d'allarme, ma insomma, in linea di massima fanno parte di questo periodo e stagione della vita. E pensa a Natale, che ci sarà da apparecchiare, ci sarà da sparecchiare, ci sarà da trovare le zie, cioè loro saranno lì sul divano. La fatica di dire alzatevi, dai. Allora, per capire se veramente i nostri figli adolescenti sono sempre stanchi, abbiamo invitato Roberto Pozzetti, che è psicanalista e psicoterapeuta, ha scritto un bellissimo pezzo sul sito nostrofiglio.it, che appunto ha ispirato la voglia di averlo qua con noi. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Federico, ciao Matteo e buongiorno agli ascoltatori. Ciao Roberto. Allora, sono davvero sempre così stanchi questi adolescenti? Ma io credo che non sia sempre così, bisogna vedere dove si colloca la stanchezza, a volte è a scuola, a volte è a casa, a volte in famiglia, però in altri momenti no, se fanno qualcosa che veramente li entusiasma, che veramente a loro piace, non sono più stanchi, mentre chattano su Facebook non sono stanchi, mentre sono su Instagram non sono stanchi, mentre giocano a calcio, a basket non sono stanchi, anzi hanno molte energie, molto entusiasmo, molta forza, molta dinamicità. E allora dipende dove si trova la situazione. A scuola arrivano in classe alle 8 del mattino mezzi assonnati con la testa china sul banco e poi nell'intervallo recuperano tutte le energie per fare con gli amici, con le ragazze. Mm-hmm. E allora bisogna un po' interrogarsi su questa stanchezza. E infatti, da genitori cosa dobbiamo guardare? Secondo te, quali sono i campanelli veramente d'allarme a cui stare attenti e come possiamo essere, se dobbiamo essere, dei motivatori, delle piccole sveglie? Beh, diciamo che effettivamente la stanchezza può essere a volte un campanello di allarme, perché sta a indicare che cosa, già per Freud, qualcosa di un tratto depressivo, cioè siamo stanchi nel momento in cui ritiriamo la libido, per dirla nei termini di Freud, o il desiderio, per dirla nei termini di Lacan, cioè se non c'è desiderio, cosa succede? Che ci viene ad addormentarci, ci viene ad assopirci, ma più frequentemente noi cogliamo però in questo della noia. Cioè la noia non è l'assenza di desiderio, la noia, come dice Lacan, è il desiderio di qualcos'altro, è il desiderio di un'altra cosa. Infatti i ragazzi spesso sono annoiati a scuola oppure in famiglia, nelle feste natalizie sono annoiati, no? Però il desiderio è altrove, perché il desiderio non è lì. Per cui io credo che in generale, più che vederci un grave campanello di allarme, che a volte ci può essere, dobbiamo cogliere quello che ci stanno a insegnare, quello che ci stanno a indicare. Non è un caso quello che ci ha detto la seconda intervista che abbiamo appena ascoltato, no? La questione del riconoscimento della posizione in cui si trovano in quel momento i ragazzi e le ragazze, no? Perché a volte tendiamo a vederli come troppo bambini, altre volte come troppo adulti, e in parte questo è anche qualcosa di specifico dell'adolescenza, dove si tende ad oscillare tra una posizione più adulta e una posizione più infantile, regredire più verso la posizione dell'infanzia da bambini e altre volte sentirsi già molto adulti. Però sta anche ai genitori e agli adulti in generale riconoscerli nella loro posizione, riconoscerli nella loro fase, nel loro momento di crescita. Non vedrei necessariamente nella stanchezza un grave campanello di allarme. Stiamo anche, come dice il filosofo Yung Chul Han, nella società della stanchezza, filosofo che ha fatto anche altri lavori interessanti sull'espulsione dell'altro, nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato, sulla società della trasparenza. Siamo nell'epoca della trasparenza. Roberto, Roberto, non credi che stiamo anche però nella società dell'iperattività? Cioè io vorrei spezzare una lancia, come si dice, no, a favore dei divanati di tutto il mondo, unitevi. Cioè, parafrasando Conrad, potrei dirti, no, dal punto di vista dei nostri figli, che forse non riescono a spiegare a noi genitori che mentre stanno stesi sul divano magari stanno lavorando o stanno pensando o stanno prendendo una in corsa con la loro noia per fare qualcosa, stanno immaginando cose. Cioè, assolutamente, è vero, è vero. Beh, diciamo che ogni sociologo cerca di leggere la nostra epoca in qualche modo: stanchezza, competizione, prestazione, cioè ognuno cerca di leggere, non a torto, ma anche a ragione, qualcosa di un punto fondamentale della nostra società. Ma poi c'è l'aspetto singolare che tu cogli, no? Cioè, il ragazzo o la ragazza in modo singolare, particolare, ci sta dicendo qualcosa, per esempio appunto che dei progetti, nel momento in cui è in chat, questo più per le ragazze, sta chattando con le amiche, con i ragazzi, progetta qualcosa a suo modo, e lì c'è il desiderio appunto, no? Per cui credo che questo sia un punto fondamentale da cogliere, no? Cogliere che cosa ci sta dicendo, che cosa ci sta insegnando, dove sta progettandosi. E questo insomma è... ci chiede di essere particolarmente attenti. Dacci un ultimo consiglio però natalizio, perché veramente sarà un periodo particolare. Sì, ma intanto vi dico, anche nella nostra associazione che si chiama In Out, associazione che io presiedo in questo momento, sì, lavoriamo molto con adolescenti, con ragazzi di questa fascia d'età, under 18, under 16. Nell'adolescenza e nella preadolescenza c'è sempre questo problema, diciamo. Ma io credo che il punto fondamentale su cui dobbiamo interrogarci sia quello di che cosa la stanchezza ci indica, no? Cioè la stanchezza, la fatica, specialmente appunto nel periodo natalizio in cui sono riposati, non sono oberati di impegni scolastici, perché i ragazzi stanno tutto il tempo davanti ai videogiochi, le ragazze stanno a chattare, ma probabilmente la stanchezza ci dice qualcosa, come ci insegna Lacan, della verità della coppia genitoriale, cioè chi è veramente stanco, chi è veramente annoiato, chi è veramente sdraiato, no? Come nel libro, nel film, a partire da Michele Serra, i genitori, cioè dov'è il desiderio fra i genitori? I genitori manifestano un loro entusiasmo, perché l'operazione peggiore che si può fare è dire ai figli: alzati, svegliati, datti da fare, leggi un libro, studia. L'imperativo categorico alla Kant, il superio per Freud, è la peggiore delle operazioni che si può fare. Dobbiamo invece dimostrare noi desiderio per il nostro lavoro, desiderio per la moglie. Questo ci sono a segnalare molte volte, no? Che siamo noi adulti, a non avere abbastanza desiderio, siamo noi adulti a non avere abbastanza passione, sufficiente entusiasmo. Per cui questo, diciamo, è il consiglio principale, più che proporre la tombola, insomma. Come? Più che proporre la tombola, dico. Esatto, cioè una volta si giocava a tombola, mercante in fiera, quando si voleva trasgredire a poker di Natale, anche io lo facevo con gli amici, no? Ecco, forse più che questo, più che cercare di riproporre qualcosa di stantio ormai superato, bisogna dimostrare desiderio, passione, e cercare anche di incentivarlo in questo, soprattutto cogliendo già dove loro trovano una progettualità, dove loro, ragazze e ragazzi, trovano desiderio, trovano entusiasmo, trovano qualcosa che a loro piace, il loro interesse. Bisogna sostenere questo. Roberto, va anche detto che questa apparente stanchezza poi a volte è anche forse il tentativo, no, di generare una distanza e quindi di generare la propria autonomia rispetto ai genitori. Sicuramente. Questo, diciamo, che è tipico dell'età adolescenziale. Mentre l'infanzia è un momento di iscrizione nel campo degli altri, no? Iscrizione all'ufficio anagrafe, al nido, alla scuola, di basket, di calcio. L'adolescenza è un momento in cui trovare una propria autonomia, no? Dove ci si iscrive, ci si iscrive, a se stessi. Dicessero: io sono stanco di te, sì, no? Io sono stanco di voi e ho l'esigenza di fare altro, di andare altrove, di spostarmi dalla casa familiare, dalla scuola che avete scelto magari voi. E certo, quello, insomma, è quello un po' il loro buon Natale. Grazie Roberto buon Pozzetti, ciao, buone feste. Grazie, buone Roberto. Feste. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Padri Eterni. E chiudiamo questa puntata con un film. È un film dove, insomma, c'è proprio una storia di paternità al centro, il strano rapporto tra un padre, un figlio, il proprio figlio. Quindi l'essere padre e figlio è proprio il cuore di questo viaggio. Il film si intitola Il Premio, il regista è Alessandro Gasma, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Eccoci finalmente arrivati alla partenza del nostro viaggio per Stoccolma e vi ricordo l'hashtag Al Nobel con papà. Ah, scusate, è mia moglie, vi dispiace se rispondo un attimo? Sì, dimmi. Dove sei? Sono in macchina con papà e Lucrezia. Buona quella. Siamo in viva voce. Ciao bella, dove state andando? Stiamo andando a Stoccolma. Ah, la statuetta. È una medaglia. Alessandro Gasman è qua con noi. Ciao Alessandro, buongiorno, buona domenica. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Allora Alessandro, ma nell'interpretare il tuo personaggio sei stato più figlio o più padre? Un padre molto strano, nel film interpretato da Gigi Proietti, è un figlio con il quale non sono riuscito a costruire un rapporto e che grazie anche all'intervento di un padre che è stato un po' assente ma che riesce, diciamo, verso la fine della sua vita a risolvere la situazione in maniera molto buffa e divertente, insomma sono un padre che scopre di esserlo e un figlio che recupera un rapporto con il padre. E questo film è stato un po' un modo per rivivere la tua storia familiare? Beh, non è la mia storia quella che racconto, è una storia di fantasia, però le atmosfere, il tipo di famiglia che racconto in questo lungo viaggio in macchina da Roma a Stoccolma, di una famiglia molto strana perché guidata da un capostipite che è un grandissimo letterato che viene insignito del premio Nobel per la letteratura, assomiglia, se non altro per la stranezza, a quella che è stata la mia famiglia, il mio rapporto anche con mio padre. Non a caso il protagonista del film è Gigi Proietti, che era un grandissimo amico di mio padre, intimo, e sono molto contento peraltro che Gigi abbia accettato di fare questo personaggio, ed è stato veramente il mio vero premio, diciamo, perché insomma lavorare con un attore così è il sogno di qualunque regista. Alessandro, io fra i ricordi più belli della mia infanzia ho due viaggi in auto molto lunghi che ho fatto assieme a mio padre. Con lui avevo un rapporto conflittuale, insomma, no, che è un po' come un po' ce l'hanno tutti alla fine. Secondo te il viaggio può essere un'occasione per disinnescare conflittualità, per avvicinarsi, per sperimentare un tempo altro rispetto a quello che è della semplice quotidianità? Sì, io peraltro sono uno a cui piace molto guidare, faccio sempre viaggi lunghi in macchina con la mia famiglia. E sì, credo che i viaggi lunghi in macchina siano un luogo dove ci si possa incontrare, cosa che avviene in maniera sotto forma di commedia nel mio film, e mi è capitato, ho fatto lunghi viaggi soprattutto in tournée con mio padre dove parlavamo molto poco perché siamo tutte e due persone abbastanza taciturne, però quei silenzi sono stati molto importanti, me li ricordo, erano silenzi pieni di parole, e sono viaggi che mi mancano un po' e che però insomma anche grazie al cinema ho cercato di raccontare a chi verrà a vedere il film. Posso ringraziare intanto chi sta andando al cinema, perché insomma poi il pubblico è il nostro primo referente e va sempre ringraziato. Si avvicina anche il Natale e dai, il Natale è comunque un momento privilegiato per andare al cinema insieme. Beh, il mio film, dico nostro perché poi è un lavoro di squadra, vorrei ricordare Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, Marco Zirelli, che sono gli altri protagonisti con Gigi Proietti del film, e me. È un film che parla di una famiglia strana ma che assomiglia a tutte le famiglie, quindi credo che sia proprio il film indicato in questo senso, perché chi verrà a vedere il film avrà modo di riconoscersi. I rapporti tra padri, figli, nipoti sono tutti diversi e tutti uguali, quindi questa è anche la storia di una famiglia strana che si scopre molto più normale di quanto ne immaginasse all'inizio di questo viaggio. Ringraziamo quindi Alessandro Gassman, ricordiamo il film Il Premio. Buone feste, buona domenica e in bocca al lupo per il film. Ciao Alessandro. Crepi il lupo. Buone feste Alessandro. Grazie, buon Natale a tutti. È il momento dei saluti, un grazie ad Andrea Roccabello oggi alla parte tecnica, Alessandro Longoni in assistenza, Valentina Ternullo che ci ha dato una mano in redazione a preparare la puntata, radio24.it, come sempre vi ricordo il nostro sito, da lì potrete scaricare un attimo dopo il fine della puntata il podcast, oppure la nostra pagina Facebook, lì potete mandarci idee, suggerimenti, critiche, spunti, eventi, insomma tentiamo anche di rispondere a tutti e di essere ben presenti. E vi ricordo anche allora che mercoledì siamo in edicola con Topolino e domenica prossima una puntata speciale con alcuni top reporter che saranno qua con noi in studio e parleremo dell'essere buoni, perché quello che chiediamo noi genitori ai nostri figli a Natale è quello: dovete essere buoni. Quindi insomma daremo qualche dritta anche a Babbo Natale. È il momento della lettera, Matteo, oggi a chi hai pensato? Ma oggi l'abbiamo scritta a un uomo bello come noi, quindi l'abbiamo scritta a Brad Pitt. Scherzi a parte, stavolta mi permetto un breve cappello introduttivo, nel senso che questa lettera l'abbiamo rivolta a lui non in quanto attore, non in quanto uomo bellissimo, non in quanto idolo delle folle, ma in quanto padre, perché ho letto una sua intervista nella quale per la prima volta Brad Pitt ha parlato del suo divorzio, della sua separazione in maniera forse costruttiva, ammettendo i suoi errori, ammettendo le sue contraddizioni di padre, dicendo che lui è cresciuto con un'idea di padre che è la persona che ha sempre ragione, la persona che sa sempre la cosa giusta da fare, e ammettendo invece per la prima volta che il padre può essere anche una persona che sbaglia, una persona piena di contraddizioni, una persona che fa del suo meglio, ma ciò nonostante a volte causa anche del dolore, causa anche delle cose poco piacevoli. Ma soprattutto la cosa che mi ha colpito in questa intervista è che lui ha sottolineato il fatto che si può riuscire a restare famiglia anche di fronte a una separazione difficile. Mi pareva un bel tema. Assolutamente, tra l'altro un tema ovviamente caldo, riceviamo tantissimi messaggi, tantissime mail di padri separati che chiedono, no, che si parli più di loro, delle loro problematiche, cosa che magari non facciamo sempre, perché cerchiamo di fare un programma che parli a tutti i padri, però insomma è un tema a cui siamo particolarmente sensibili e troveremo comunque modo di affrontare l'argomento anche in maniera più specifica, perché insomma ci sembra assolutamente doveroso. Ti aspetti la risposta da Brad Pitt? No, non mi aspetto la risposta da Brad Pitt, spero che lui la risposta però la dia a chi se la merita. Questi sono i Padri Eterni e vi salutiamo con la lettera a Brad Pitt. Lettera aperta a Brad Pitt. Caro Brad, domani sarà il tuo compleanno. Compirà gli anni quello che viene considerato, oltre che un bravo attore, uno degli uomini più fighi del mondo. Anche uno dei più invidiati. Stavi con una donna bellissima, sei figli voluti insieme con forza, una famiglia solida che era un esempio. Poi la vita si è messa di traverso e il castello è crollato. Come succede in ogni dolorosa separazione, all'inizio sono volati gli stracci. Ora, invece, dici di aver recuperato il tuo equilibrio, hai superato i problemi di alcolismo e, soprattutto, sei tornato presente nella vita dei tuoi figli. Hai dichiarato in una recente intervista, a proposito del divorzio, che nessuno vince in tribunale, la questione è solo chi perde di più. Che passi anni su un caso per dimostrare perché tu hai ragione e gli altri hanno torto, e non fai altro che aumentare l'odio. Io mi rifiuto di fare questo, hai detto. Ecco, caro Brad, volevo dirti che quel no all'odio è ciò che ti rende un padre vero, il miglior ruolo che potrai mai interpretare. Perché la gente ti ha amato fino a qui per dei motivi che sono visibili a tutti. I tuoi figli, invece, ti ameranno per dei motivi che saranno visibili solo a voi, e sono quelli gli unici che contano davvero.